allora non sarà più finta. E poi vedo un audience che toccherà il 70%. Se sono un tocca il 70%, mi taglio le palle in diretta. E a questo punto rappo solo per me stesso. Se esco bene, se non è lo stesso. Shit che ha già innesto in ogni mio testo. Ogni istante si fa intenso. Nella ricessa, oh, sempre più denso. Più spessa la nebbia che appanna la vista. Sulla lama del rasoio rischia l'equilibrista. Non controllo della situazione, non cado. Lo so che la mia voce è un'esperienza salomaso. Che puoi tornare al limite fumandoti del braso. Rubo campioni in merda, ma non sono un ladro. Sdraiato sopra l'erba mentre mi rollo il prato. Super poleggiato, MC allo stato brado. Il mio pensiero viaggia sospinto dal vento. Mi chiedo cosa faccio avendo sabbia nel deserto. Come Nelson, se non va come gli Enzo. Più l'umane che gli il demon. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Io così sono e così resto, giù in strada, nascosto dietro l'angolo e fumando marijuana blanda. La sayonara placa, la tua serata è rovinata, raga. Fatto sul beat con la clava. E adesso chiamami Neanderthal. Se vedo i tuoi nervi sali come di altri. Pam, pam, pam, very, very uomo. Dove li senti? Qui non ci sono ferri e qui non ci sono ghetti. Smetti che non trasmetti i concetti. Scendi che dai fastidi ai presenti. Senti, qui non si lavano menti. Vendi il culo al club e ti lamenti. La meditazione porta saggezza. La mancanza di meditazione rende ignoranti. Impara bene ciò che può migliorarti e ciò che può peggiorarti. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Io così sono e così resto, non cambio. Sulle rotaie come un treno fisso non deraglio. Piuttosto sbaglio, ma non seguo la tua moda. Cerchi commerciale, giuro non è Coca-Cola. Che succede?